Ciao di nuovo. Allora, prima non ci avete assolutamente sentite perché ci siamo dimenticate di azionare una manopola. Ma non è vero, non è che ci siamo dimenticate. No, lo sai Gioia che io sono assolutamente sincera, io dico sempre la verità. Vabbè, ma ogni tanto la verità fa anche male, quindi la possiamo verità anche... ti fa male, lo so. Va bene, le ribelli con i loro problemi tecnici e a volte anche un po' psicologici sono tornate? Dopo una lunghissima pausa estiva. Quanto vi siamo mancati? Mancate? Manca tu? Beh, tutto. È difficile avere delle risposte, ma potete darcele sui nostri canali, vero Giulia? Yeah! È arrivato il momento che aspettavamo tutti e tutte. Allora, forse ci proviamo. Abbiamo il canale Telegram, quindi potete scrivere a chiocciola radio... trattino basso zam chat brave, okay. E poi potete scriverci anche su Facebook, la pagina Radio ZAM, perfetto, o su Instagram perché esatto. Le ribelli hanno il loro canale preferenziale. Posso dirlo io? Vai Gè. Ma chi è questa qua che parla? Gioia, mi hai rubato il posto comunque. Come ti ho rubato il Dovevo posto? Dovevo essere io la co-conduttrice. ma un po' strano, adesso mi sono trovata qua. Meno male che ci sei tu. Ma no. Meno male che ci sei tu. Io adesso starò zitta tutto il tempo e parlerete voi e farò finta no. di essere utile alla regia. No. Ci sei, quindi ci sei anche tu in questa fantastica puntata. La prima puntata della nuova stagione, tipo Netflix. Yeah. Siamo tornate puntuali come la quarantena. Yeah. Perfettamente, con la quarantena ritorniamo anche noi. Anche noi. Il canale Instagram, che ci siamo dimenticati di dire ancora, Vai. È le_basso, ribelli_basso, zam. Scriveteci. Numerosi. Vabbè, allora, visto che ci sono stati questi problemi tecnici, mandiamo un'altra delle nostre canzoni scelte per voi, per noi, per tutto dalla nostra fantastica Lady J. Vi rimandiamo quella che è il nostro jingle d'ingresso. E niente, buon ascolto, ci risentiamo tra pochissimo. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llegó para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusamente obtusas. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa. Que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego. Ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejó por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Abajo, menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo. Haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso minifalda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos. Eccoci, siamo tornate pronte per iniziare la nostra prima puntata della stagione, che ci introdurrà la nostra fantastica Lady J. A te la parola. Una puntata molto delicata. Il tema è un tema affrontato, cioè che questa quarantena, non solo quarantena, ma in questi mesi è un tema molto caldo. Si parla della legge Zan, che è la legge contro la transfobia, le violenze di genere. Abbiamo con noi in collegamento la nostra avvocata di fiducia, Virginia, nonché compagna di Non Una di Meno, che ci spiegherà innanzitutto che cos'è legge Zan e perché è importante e quali sono i limiti di questa legge, anche da un punto di vista sia giuridico che da un punto di vista politico. Virginia? Ciao, ciao, ciao, benvenuta. Vi sento benissimo. Yeah. Questo collegamento, ormai sui collegamenti siamo super ferrate. Yes. Virgi, tutto bene? Stai bene? Sì, sto bene e sono contenta di questa trasmissione. Come la vivi con questo nuovo lockdown? Come lo vivi? Ma identico a prima, perché per me cambia veramente poco. No, nel senso che mi spostavo già, insomma, per fare giusto le cose che servivano. Finché rimangono le scuole aperte, per me va tutto bene. Va bene, allora Virgi, volevamo chiederti innanzitutto, come abbiamo detto all'introduzione, che spiegassi un po' a chi ci ascolta, magari non lo sa, che cos'è legge Zan. Ma allora, senza fare mega pipponi giuridici, allora... a grandi linee è stata proposta già in tanti anni, si è cercato di coinvolgere delle aggressioni a persone più fragili. Adesso se ne parla di più perché effettivamente queste proposte di legge hanno superato uno scoglio che appunto è alla Camera, per cui da una proposta di legge, c'erano in realtà tante proposte di legge, c'era la proposta di legge cosiddetta Zan, perché è il relatore stata la proposta di legge Scalfarotto, la proposta di legge Boldrini, ce ne sono tante. Questa ha il merito di aver sintetizzato le proposte anche degli altri onorevoli, diciamo, e ha messo al suo interno 5 altre proposte di legge e quindi è stata chiamata appunto Zan, ma ripeto perché è il nome del relatore, in realtà dentro ha una quindicina di onorevoli che hanno spinto e hanno redatto questa proposta di legge, che è diventata un disegno di legge. Se ne parla tanto perché principalmente è criticata per il fatto che si pensi che attraverso questa legge si possa un po' ledere il diritto alle persone di esprimersi. Perché? Perché questo disegno, che oggi è un decreto a tutti gli effetti, quindi anche seguendo l'iter si possono anche vedere meglio come funzionano nella nostra Costituzione anche le cioè come si arriva poi a formare una legge, per cui questa che l'abbiamo seguita fin dall'esordio, no? Noi sappiamo che a luglio era una proposta, no? Adesso è un decreto e può diventare o meno una legge se passa o no al Senato. In concreto che cosa va a fare cosa andrebbe a fare questa nuova legge? Si andrebbe a insinuare nel codice penale, perché dentro il codice penale noi abbiamo già una sezione che è quella dei delitti contro l'uguaglianza, tra l'altro una sezione nel codice penale che prima neanche c'era, è stata introdotta di recentissimo, parliamo del 2018, quindi questi famosi articoli 604 bis e 604 ter non esistevano neanche, sono stati introdotti dopo. sono due articoli. Il primo è propaganda e istigazioni a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. E il secondo è un aggravante, quindi siamo nell'ambito del penale e siamo nell'ambito appunto dei reati, cioè se tu ti comporti in questo modo commetti un fatto penalmente rilevante e come tale perseguibile. Che cosa va a fare questa legge? Semplicemente dentro un articolo, quindi un reato che esiste già, aggiunge un pezzettino e quindi dice non solo per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ma anche per motivi legati al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere o alla disabilità. Capisci che è rivoluzionario rispetto a un ambito e rispetto a un panorama in cui non c'è niente. Primo, perché finalmente si riconosce una tutela a chi si comporta, cioè a chi subisce una violenza da parte di persone che vorrebbero una sessualità normata. E secondo, perché si parla per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, il diritto del lavoro che già c'era sempre per discriminazione, si parla di orientamento sessuale, identità di genere, che è molto rivoluzionario questo aspetto, riuscire a cogliere la differenza. E poi si introduce anche il concetto di disabilità, perché l'abilismo, il machismo, transfobia sono la stessa, cioè sono altre facce ma della stessa medaglia di matrice chiaramente fascista, per cui sono tutte delle tutele. Ok, quindi in pratica la legge è molto importante, anche perché saremmo praticamente gli ultimi in Europa ad avere una legge che tuteli queste persone, però quali sono i limiti, se così si possono chiamare, come visto che sei sicuramente avvocata ma anche compagna facente parte di Una di Meno, che cosa si potrebbe criticare di questo decreto? Beh, allora posso dire solo che comunque non tutti in Europa ce l'hanno, cioè, alcuni paesi come la Francia aveva già introdotto queste tutele per soggetti più nel 2003, però non tutta l'Europa ha al suo interno usa questo linguaggio, per cui oggi ha senso avere questo tipo di specificazione nel linguaggio penale, perché si tratta di un reato d'odio. Quindi anche in Inghilterra ci sono gli hate crimes, ma non sono sempre rivolti a tutelare ogni aspetto della fragilità umana, d'accordo? Quindi in Italia sarebbe molto importante, perché si andrebbe a tutelare veramente un'aggressione per motivi di odio. Quindi io ti sto aggredendo e sto istigando alla violenza per il fatto che tu sei trans, per il fatto che tu sei una povera storpia, per il fatto che tu sei una lesbica, e ti odio per questo e ti aggredisco per questo. Prima non c'era, per cui io se ti vedevo per strada e ti aggredivo ed eri black, cioè io ti aggredivo perché ero un razzista, non emergeva. Poi dopo il 2018 siamo riusciti ad introdurre un certo tipo di tutela e si è alzata l'asticella. Oggi si alzerebbe nuovamente l'asticella, per cui si introdurrebbe questo tipo di livello, che è molto importante, perché un conto è essere tutelati da un'aggressione, e un conto da un'aggressione perché sono quello che sono, che è molto diverso. non so se sono riuscita a spiegarmi, cioè se io perfettamente se c'è una rissa al bar e due persone una persona viene aggredita, si sono spinti eccetera, allora quella è un'aggressione, allora risponderà di lesioni la persona che ha aggredito. Ma se tu mi aggredisci perché io sono black, perché sono sinti, perché sono lesbica, perché sono sulla sedia a rotelle, questo è un reato d'odio e come tale va trattato. È un particolarismo che in questo caso nel diritto ci aiuta a tutelare una fragilità che prima non era menzionata, quindi in questo caso il linguaggio della norma è fondamentale. Poi ci sono, come dici tu, dei limiti. Perché? Perché il diritto penale deve essere l'estrema ratio, perché noi non possiamo aspettare di essere menati, non possiamo aspettare che si finisca in tribunale, non possiamo aspettare di andare a fare una denuncia dai carabinieri per poi innestare una comunicazione, una notizia di reato che poi chiama un pubblico ministero a indagare. Cioè il diritto penale deve essere l'ultimo tassello. Servono delle educazioni sul luogo di lavoro, delle educazioni nelle scuole, serve educazione affettiva, serve educazione sessuale, servono dei fondi per i centri antiviolenza, per l'aiuto e l'accoglienza di persone LGBTQ, per cui è un pezzettino questo, per la violenza che le persone nominate nella legge, quindi LGBTQ e disabili, una violenza che queste persone subiscono ogni giorno, e la violenza agisce ogni giorno ma in tantissimi aspetti: discriminazione sul luogo di lavoro, cacciati via da casa, per strada, d'accordo? Quindi è un po' qui che Non Una di Meno giustamente dice grazie, lo prendiamo ma come acconto. Non siamo contenti e soddisfatte fino alla fine, però cioè, iniziamo. Vogliamo molto più di Zan, perché non ci accontentiamo di questo, perché la tutela riguarda degli aspetti della quotidianità molto, molto più complessi e dirompenti da questo punto di vista, no? Certo. Ragazze, voi vedete, sono stata chiara? Assolutamente sì. Sì, sì, molto. Estremamente chiara anche dal punto di vista giuridico, che a volte appunto si leggono le informazioni e non è neanche così tanto facile capire, andare a fondo di quello che stiamo leggendo per andare a vedere la sottigliezza del sì, è un passaggio, ma non è ancora sufficiente. Quindi magari uno, ok, può anche essere felice e contento di questo primo passo, che poi comunque primo passo che è arrivato su diversi step, e soltanto settimana scorsa, dopo anche vari rinvii, c'è stato il blocco, perché a quanto pare tutti possiamo stare in smart working, ma i parlamentari sembrava di no, e quindi è stato addirittura rinviato un'ulteriore volta. Quindi è importante avere anche tutte queste informazioni proprio per saper leggere ciò che accade e abbiamo appunto di fronte. E, a me verrebbe anche un po' da chiedere, cioè sicuramente Non Una di Meno i vari movimenti appunto si muoveranno su questa onda per vedere un pochettino. Sì, abbiamo iniziato, ma non ci fermiamo, immagino. Quindi c'è stato un presidio recentemente anche davanti al tribunale, e di Non Una di Meno, proprio per queste tematiche, e immagino che la cosa anche continuerà. Sì, sicuramente. Il 10 ottobre c'è stato un presidio, estremamente trasversale, non era convocato da Non Una di Meno, ma una piazza che Non Una di Meno ha attraversato con il contenuto di Non Una di Meno, chiaramente la piazza era estremamente variegata, e due settimane prima invece c'era stato un presidio davanti al tribunale, ma per una sentenza della Corte d'Appello. Quella sulla violenza. Che sì, sostanzialmente perché non riconosceva una violenza. Violenza subita dalla vittima al contrario, togliendo efficacia alla capacità dolosa di chi l'aveva commessa. Comunque sì, la strada è estremamente lunga. Devo dire che in questo caso l'Europa è molto, l'Europa intesa come istituzione è molto efficace, perché l'Europa comunque dà, sì, sicuramente l'Italia si è sentita prestata, perché è dal 2006 che l'Europa tramite il Parlamento europeo adeguatevi alle linee guida. La Corte europea dei diritti dell'uomo è continuamente intasata dalle vertenze che gli stati inviano, per cui se la Corte europea dei diritti dell'uomo va in una direzione, la Corte di Strasburgo ribadisce che gli stati si attivino per tutelare le persone appartenenti alla comunità LGBT, chiaramente sono dei segnali. Quello che noi pensiamo è che poi dal basso si creino le vere pressioni, per cui è la piazza. Quindi sì, ci sono delle vertenze che vanno spese sicuramente dal basso, dalla piazza. Sì, scusa Virgio, ho detto tribunale, ma invece era quello in Duomo, ho messo insieme le due cose. Un po' di emozione ancora, confuso. Comunque, quindi è giustissimo che non di meno veicoli, insomma, questi veicoli della lotta verso, insomma, la persona, ed è giusto che ci siano... È giusto che questa legge ci sia, fortunatamente, anche, mi pare che fosse mercoledì che è passata al Senato, martedì, mercoledì, una cosa del genere, quindi comunque si avanza. Sì, no, alla Camera. Alla Camera. Questa settimana. È giusto, sì, che ci sia. È un'intersezione, come dici tu, perché anche la scelta di andare a insinuarsi nell'articolo 604 bis e 604 ter, dove già si parla di odio etnico e razzista, chiaramente è una lotta che ha bisogno di un'intersezione, quindi l'intersezionalità già di lotte svolte dalle transfemmine LGBTQ e anche dal movimento che nasce negli Stati Uniti, ma che è arrivato fino a noi, Black Lives Matter, chiaramente ci porta a dire che sono degli ottimi veicoli per fare pressioni sui palazzi, dove poi vengono effettivamente prese le decisioni per cambiare le leggi. Non una di meno non lo può fare da sola, ma non sarebbe neanche giusto, perché comunque appunto proprio per questi motivi ha senso unire le lotte con altre realtà che da anni si occupano anche di altri temi. E comunque io vi invito a leggere questi due articoli, perché effettivamente se la legge passerà si aggiungerà appunto questa dicitura. È molto semplice, adesso poi non so se sono riuscita a far capire, è proprio molto semplice l'intervento della proposta di legge, ci si innesta su due articoli del codice. Sì, io ho provato a leggerla, però in effetti è estremamente chiara e, come dicevi tu, parte appunto da questa matrice d'odio rivolta motivazioni di etnia, nazionalità, religione, allargandola, quindi è molto semplice, però spiegarla e metterne in luce appunto i limiti è sempre molto di aiuto, ecco, di sicuro, e continuare a parlarne anche. Sì, se ne è parlato tantissimo perché si è usata questa legge per chiaramente si è ribaltato il concetto, no? Ah, ma allora stai venendo meno al mio diritto costituzionalmente garantito di esprimermi come voglio, allora mi vuoi tappare la bocca, mi stai mettendo un bavaglio, ma allora la libertà di espressione dov'è? Certo, la libertà di espressione finisce dove inizia la mia libertà di non essere insultato, quindi se la tua libertà di espressione e di esprimere il tuo pensiero è un insulto, ed è un insulto di odio, e allora interverrà un reato di odio. E chiaramente la violenza, se da sole le persone, ma perché poi è questo il concetto di molto più di Zan, è sempre una, cioè la legge è uno specchio del paese, no? Per cui se nessuno insultasse nessun altro non ci sarebbe neanche bisogno di normare l'insulto, però se la gente continua a insultare allora bisogna normare. Non si insulta se no, ma se poi tu inizi a insultare perché questa persona è diversa da te, allora ho bisogno di specificare ancora di più il grado dell'insulto, e in questo modo, facendolo, io esalto a bene il tuo orientamento sessuale, che è un grado di civiltà che 10 anni fa non sarebbe neanche mai stato messo in discussione. E infatti le prime leggi che facevano proposte di questo tipo sono del 96 e non sono mai state prese in considerazione. Si ricordo, era forse non mi ricordo chi era il parlamentare che l'aveva proposta. Nel 96? No, sì, sì, Vendola forse, vabbè, insomma, mi ricordavo una cosa così. Comunque sono tipo 25 anni che questa cosa dovrebbe, cioè era in ballo, se ne parlava già, quindi giusto che ci sia, già, sì. Esatto, giusto che ci sia, grandissima Virgi, sei stata come sempre preziosissima. E ti ma grazie salutiamo. A voi di aver ascoltato questo pippozzo. No, è sempre, assolutamente. È sempre bene che questi pippotti ci siano, e è sempre bene ascoltare. Sono sempre chiarificatori. Grazie mille, Virgi. Grazie a voi, continuo ad ascoltarvi. Buona domenica. Buona continuazione. Ciao. Bacio. E beh, dopo aver affrontato tematiche così importanti e profonde, andiamo con dopo essere erudite. Sì, dopo aver fatto anche dei miscugli a volte, vabbè. Io sono super emozionata, sì. Beh, è il bello di questa prima puntata, l'emozione. Emozione che spero chi ascolta da casa possa percepire, fare proprio, accoglierla, e in questo caso scriveteci sulla chat della radio o su Telegram oppure su Facebook, e fateci sapere cosa ne pensate, cosa volete dire, fare anche dei commenti, non lo so, quello che vi viene in mente. Noi siamo qua pronte a leggere. Mandiamo partire questa chun, la nuova chun. Facciamo partire chun. Chun, la nuova chun. Vai, sì, gioia alla regia. Si dice così quando vuol dire nuova canzone, ecco, diciamo. Gergo tecnico. Ok, allora posso annunciarla e ascolteremo Dai. Milkshake di Kelis. È giusto, Ge? Kelis, perfetto. Milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. Yeah. you're smart. La la la la. Boys to the yard, and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. Sei diventata super brava Gioia. No, mi è piaciuta. Super tecnica. Ci ha dato i tempi, per voi da casa che ovviamente non ci potete vedere, ci ha dato i tempi di fine canzone, reinizio del microfono aperto. E quindi di nuovo la trasmissione. Beh, comunque bisogna dire come si chiama questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Vai, diccelo. Ho chiesto pure a Jessica se la pronuncia era giusta. Mi ha detto di no, ovviamente, ma mi ha suggerito quella migliore, quella giusta. Quindi, allora, abbiamo ascoltato Places dei The Blaze. Wow. Perfetta. Very good pronunciation now. Nessuno mi fa i complimenti per la mia di pronuncia, invece no, vabbè. Io non ho sentito nulla. Come non l'hai sentita? No, non ho sentito. Oddio, abbiamo dei seri problemi con audio oggi. E vabbè, tanto per cambiare. Tutti questi mesi di assenza non ci sono serviti. Speriamo. Spero che adesso non si senta tutta brulla la mia voce. Un pochettino sì, in effetti. Una voce brulla. Vabbè. Una voce brulla. Va bene, ritorniamo. Abbiamo adesso in serbo. Abbiamo un altro. Quali sono le nuove? Abbiamo un altro ospite, anzi, un'altra ospite. La nostra cara Charlie, anche lei attivista del collettivo di Degenerazione, un collettivo che si occupa di tematiche appunto di genere e che ha seguito anche lui, in questo collettivo, molto da vicino tutto il progredire, l'iter della legge Zan, e ha anche prodotto un testo a riguardo. E io volevo un attimino, proprio per introdurre la nostra Carlotta, fare un piccolo collegamento tra una cosa che aveva detto prima Virginia, che a me è piaciuta molto, e quello che riporta appunto il testo di Degenerazione, riguardo all'essere rivoluzionari. E proprio perché cioè è un po' una rivoluzione che all'interno del codice penale vengano inserite delle norme che riguardano appunto l'odio contro l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Per me questo, che si inizia a parlare anche all'interno del codice penale e si usino questi termini così specifici, è un cambiamento, sì, non è ancora abbastanza, non ci accontentiamo, ma comunque un cambiamento rivoluzionario inizia ad esserci. E il testo di Degenerazione cita proprio così: il nostro è un percorso, processo rivoluzionario già in atto e che prima o poi esploderà in faccia alle difensori, difenditrici, oddio, dello status quo patriarcale. Difensore. Era difensore. Vabbè. Sì, sono molto emozionata. Non so se si capisce, anche perché c'è qualcuno all'ascolto di cui ho molto interesse che ascolti, e quindi sono un po' tutta emozionella. Insomma, questo qua, volevo dare questo incipit a Carlotta, se c'è, in teoria c'è, io la vedo, cioè vedo che è connessa con noi, ma non so se ci sta seguendo in questo preciso istante. Charlie, ci sei? Ciao! Eccoti! Benvenuta! Ciao! Ciao, ciao a tutte! Come stai? Bene, dai, e voi? Bene, abbastanza bene. In quarantena, però dai, bene. Dai, rimetti il video, non ti vediamo. Eccola! Eccola! Ciao! Ciao! Come sta andando questo periodo, Carlotta? Bene, vi sto seguendo dall'inizio della puntata e ho sentito tante cose interessanti. Scusate. Sì, diciamo che come Degenerazione, come giustamente introduceva Giulia prima, ci siamo interrogate anche noi rispetto a questo disegno di legge. E un testo, ma allora prima Virginia ha anche detto che la legge è lo specchio del paese, mi ha colpito anche questa frase, e sia perché appunto dobbiamo, cioè arriviamo a, dalla parte negativa, vedendo la parte negativa, diciamo, è necessaria una legge di questo tipo, proprio perché le in cui ha più sono quotidiane e colpito della propria vita, e quindi di sicuro rispetto a questo è un passo in avanti. È un passo in avanti anche perché viene inserita la parola identità di genere. Mm-hmm. Quindi un riconoscimento anche di tutta una serie di soggetti che fino ad adesso sono stati messi insomma, non sono mai emerse particolarmente, quantomeno non a livello giuridico, nel codice penale. E richiama anche, secondo me, l'intersezionalità, no? Perché verrebbe affiancato alla legge appunto contro la propaganda d'odio razzista, no? Gli atti violenti razzisti. E quindi conferma anche tutto questo, cioè l'intersezionalità, no, delle nostre lotte. Però vabbè, la nota negativa che, su cui abbiamo riflettuto anche come degenerazione è proprio il fatto che venga puntato tutto sotto delle pene, mentre invece quello di cui sarebbe bisogno sarebbero delle politiche, cioè delle leggi che possano permettere l'autodeterminazione delle persone in tutti i campi, e questo può essere fatto attraverso educazione, salute, welfare e reddito, e anche questo si trova in molto più di Zan, anche nella riflessione di Non Una di Meno. E questo, se hai voglia, così anche molto a caldo, cosa intendiamo per autodeterminazione? Che così anche chi ci ascolta da casa, che magari non è così abituato come noi a sentire questo tipo di linguaggio, questi termini, capisce a che cosa ci riferiamo, soprattutto nel momento in cui non ci basta appunto questa legge, diciamo, molto più di Zan. Certo, l'autodeterminazione è la possibilità reale di poter essere se stessi e agire nei propri ambiti di vita, che sia nel lavoro, la famiglia, la scuola. E per fare ciò è chiaro che bisogna vivere in contesti in cui è possibile questa cosa, no? E se questa possibilità si crea lavorando in quei contesti, come fanno realtà come Non Una di Meno, Degenerazione, che portano ad esempio laboratori sulla sessualità e l'affettività nei licei, o continuare a lottare anche per anche la 194 è una legge di cui non ci accontentiamo, no? La legge 194 teoricamente difende il diritto della donna a interrompere una gravidanza, ma poi nell'attuarsi non è effettivamente così. Autodeterminazione è anche la possibilità di poter scegliere sulla propria gravidanza, e quindi avere la possibilità di farlo e non di non inceppare poi in un invece malfunzionamento totale della sanità, perché ci sono troppi medici obiettori, perché comunque devi fare un psicologo perché possa valutare che tu sia capace di scegliere o meno, insomma, vabbè, cose che sappiamo, no? Però sì. Spero di aver risposto più o meno alla domanda. Sì, assolutamente, era proprio per andare un po' più a fondo del concetto molto più di Zan, proprio perché magari da fuori, appunto, chi non come noi, che fa parte di collettivi politici, che fa attivismo, magari dice vabbè, è già un grande cambiamento che ci sia una legge che tutela in questo modo tutte le persone che vengono discriminate per l'orientamento sessuale o per l'identità di genere. E invece noi invece chiediamo ancora di più, non ci accontentiamo, e sembra magari da fuori, ma come? E quindi parlare di autodeterminazione, secondo me, anche questo è un atto rivoluzionario, proprio perché cerchiamo di capire insieme, tutti, tutte, tutto, perché vogliamo ancora di più, e partendo appunto dall'autodeterminazione. No, sei stata assolutamente chiarissima, e ecco, l'ho perso adesso. E appunto quello che dicevi è anche nel testo di Degenerazione, che io invito chi ascolta ad andare a vedere sulle pagine Facebook sia di Non Una di Meno Milano che di Degenerazione. Sono stati pubblicati svariati testi in merito a questa legge, e quello di Degenerazione affronta anche proprio quello che diceva Carlotta abbastanza nello specifico. Saremo nelle scuole, negli ambienti in cui l'educazione alla sessualità e all'affettività sarà primo presidio di prevenzione alla violenza. Proprio quello che diceva Carlotta, infatti, cioè, molto specifico, abbiamo abbastanza le idee chiare su che cosa vogliamo ancora, e per questo non ci fermeremo. Sì, si sente tutto un po' male oggi. Spero che ci perdoneranno da casa. Cosa dite? Sì. Non so, magari se provassimo a togliere, cioè a mutolirci quando non piangoci la bocca, magari aiuta, non lo so. E vabbè, io confesso anche che per questa puntata avevo chiesto una partecipazione, perché appunto poi c'è un po' sempre la come si dice, il limite del, è vero, io sono attivista, faccio parte di un collettivo che si occupa di tematiche di genere, poi però non rientro nel mondo, almeno direttamente, come io come persona, come individuo, nel mondo LGBTQIA+. E quindi avevo chiesto anche la partecipazione di una scrittrice che invece si è occupata molto anche da vicino, ma non poteva per impegni personali, ovviamente. E però è anche questo, è bello poter sentire più voci che arrivano da più parti e più punti di vista, proprio per questa sorta di mescolanza, e non avere neanche questa presunzione, tra virgolette, di parlare per qualcun altro, e invece proprio perché chi le vive sulla sua pelle le cose, ovviamente, ha ancora più diritto di potersi esprimere e portare avanti le proprie lotte. Questo, ovviamente, facendolo tutti insieme, tutte insieme, è ancora meglio. E, non lo so, sono arrivate delle domande per caso, Gioietta? Moltissime, no, ovviamente. Moltissime. Così tante che si è impallato il computer e non riesco troppe a leggerle. Ci avete, guarda, scritto. Mi dispiace. Troppe persone. Ma sono faville, eh? Allora, intanto io ringrazio Carlotta per la Charlie. Fa strano chiamarla Carlotta, volevo dare un senso un po' di ufficialità a questo momento. Ringrazio intanto Carlotta per il suo contributo. E grazie a voi. Probabilmente ti richiederemo delle partecipazioni in futuro, ovviamente, su come anche andranno avanti le lotte di Degenerazione. Quando volete. Ciao Carli. Ciao belle, grazie ciao. Mille. Ciao, Bellona. Ciao Charlie. Ciao. E niente, direi che adesso ancora un po' di musica e poi, vabbè, ci sono le ciambracconate della Mercu. No, non è vero. No, le ciambracconate, no, nel senso che... I love ciambracconate della Mercu. No, soprattutto, vabbè, quando in coppia con Gioia. Siamo molto ciambraccone, siamo tornate, sì. Era tutto un piano diabolico della Gè di lasciarci qua da sole. Esattamente. Si stanno abbassando le luci. E via. No, è molto caldo. Senti caldo? Senti caldo? Sarà la mia voce? Zona rossa, luci rosse. Esattamente. Niente, allora proseguiamo con la puntata, abbiamo ancora un sacco di tempo in realtà, va bene, mandiamo un po' di musica e poi vi leggerò alcune cosine molto interessanti che ovviamente non ho scritto io, ma che ho trovato veramente illuminanti. Tutto questo dopo Murder on the Dance Floor. Bella. Di Sophie Ellis Bextor. Perfetta. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, I'll have to play. If you think you're getting away, I will prove you wrong. I'll take you all the way. Boy, just come along. Hear me when I say, hey. It's murder on the dance floor, but you better not kill the girl. You better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so. You'll just have to pray. Thank you. Eccoci. Oh, scusate, forse ho urlato un po'. Volevamo fare un piccolo break ricordandovi tutti i canali con cui entrare in contatto con noi. Allora, c'è Telegram, la chat di Telegram, radio chiocciola. Chiocciola. Radio. Radio zam trattino basso chat. Così ci potete scrivere. Chiocciola trattino basso asterisco UUU. Non è vero, vi sta dicendo, vi sta prendendo in giro. E questo, cioè veramente, non lo so, sono cose che mi ripeto 10 miliardi di volte prima di fare la diretta, nel momento in cui poi sono qua, anche se in questo momento abbiamo soltanto il faccione della già sorridente bloccato, molto bene, vado in emozione e non ricordo più nulla. Beh, ma l'emozione ci sta, c'è tutta, ogni puntata, poi comunque bisogna ammettere che abbiamo smesso, è finita l'estate l'altro giorno. Dopo questa lunga pausa estiva abbiamo ripreso, per cui ci sta, no? Che ci sarebbe un bel tappeto musicale adesso di quelle musiche un po' tristi, quelle... Non da lounge? So. No, non da lounge, proprio quelle malinconiche che ti provocano un po' di dolore fisico allo stomaco. Ma noi siamo ribelli, non no, ma era per quello che stavi dicendo, lo sentivo molto qua, cioè, capisci? Capisco. Vabbè, dopo questo momento così... Tu capisci? Io praticamente non ho ascoltato nulla perché li ho persi esattamente da quando avete incominciato a parlare. Sì, ce ne siamo accorte. Un buco nero. Ce ne siamo accorte che ti sei bloccata sul fantastico Gizzi. Di nuovo. Vabbè, l'abbiamo perso. Vabbè, Giulia, vuoi annunciare tu la canzone? Volevo dire anche, Facebook Radio ZAM, e lì potete mandare dei messaggi, vi rispondiamo sempre noi perché al momento ci siamo qua noi in radio, ma ci sono anche tantissimi altri bellissimi programmi che potete seguire quando volete, basta andare a guardare la scaletta settimanale, ma non ci crediamo! Intrusione in radio! Ma chi è? È un'altra ribelle, provate a indovinare chi è. È bassa, con i capelli corti, con i ricciolini... È una mascherina. E ha dei bellissimi occhioni castani. È la nostra Martina. Ciao Martina. Benvenuta. Dai, vieni a salutare gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ciao, volevo passare a salutare per la prima puntata dopo tutta l'estate. Hai fatto molto bene, siamo molto emozionate. Una bella sorpresa. Immagino, come va? Bene. Molto molto bene. Ah, tra l'altro mi arrivano dei complimenti in maniera privata, ovviamente, ma che io condivido perché sono cose molto carine. Mi arrivano dei complimenti per me, ma anche per le mie compagne di avventura e soprattutto per le musiche scelte dalle DJ. Ti fanno i complimenti qualcuno dei nostri ascoltatori. Grandi, grazie, adoro. Tra l'altro adoro. Virginia si è riconnessa. Grande Virginia. per salutare apposta Martina, per cui un'emozione. Bello. Che bella questa connection. Surprise, momenti di surprise. Posso dire una cosa? Certo. Vai Virginia. Ho detto subito che era Martina. Hai capito? Quanto amore. Va bene, allora Martina, chiedevo a Giulia, ma adesso che sei venuta tu, lo chiedo a te, vuoi annunciare tu la prossima canzone? Poi rimanete attaccati perché c'è un'ultima cosa che dobbiamo dirvi, raccontarvi. Adesso... Prima di berciare definitivamente. Ascoltiamo Closy, Amazonia. Perfetto. Thank you. Allora, volevo concludere questa puntata, cioè concludere il mio apporto alla puntata. Voleva essere una cosa abbastanza, come si dice, da un lato molto anche di sentimento e, ma dall'altro anche dare la parola a chi queste tematiche le affronta sulla sua pelle e anche nella vita in generale per lavoro. Nello specifico sto parlando di Paul B. Preciado, che è appunto uno dei massimi esponenti del movimento queer, della teoria queer. È un filosofo, curatore d'arte, ha studiato filosofia a Madrid, a New York, a Parigi, è stato allievo di Derrida e ha fatto la sua tesi di laurea basata proprio sul lavoro di Foucault sulla soggettività e l'identità, e ha trattato le materie di biopolitica, sessualità, pornografia, architettura e ovviamente teoria queer. E uno dei suoi testi, Manifesto Controsessuale, è appunto uno dei punti di riferimento della teoria queer. Ma io oggi, nello specifico, volevo leggervi un capitoletto molto breve di un altro testo di Paul B. Preciado, che si intitola Appartamento su Urano, e sottotitolo è proprio Cronache del transito. Sono dei piccoli racconti che lui ha fatto nell'arco degli ultimi anni, quando appunto ha affrontato durante la sua transizione. E uno dei primi capitoli io l'ho trovato veramente poetico ed emozionante e volevo leggerlo oggi, visto che è la nostra prima puntata dopo la pausa estiva. Sì, si sente di sottofondo il martello. Oddio. Come si chiama? Il trapano. Martello adesso pneumatico. Sì, vabbè, sono proprio fusa, non ci posso fare niente. Quindi adesso andiamo a chiedere di sospendere per un attimo i lavori. E volevo leggervi appunto questo capitolo, proprio perché è la prima puntata dopo la pausa estiva delle Ribelli, ma ci troviamo in autunno, è un nuovo anno politico, è un anno che si preannuncia comunque complicato per tutte, tutti e tutto, sotto ogni punto di vista, ma le nostre lotte non si arrestano. E questo capitolo si intitola Diciamo Rivoluzione. Adesso, sperando che non riprendano i lavori, io inizierei. Arrivo, I migliori mancano d'ogni convinzione, mentre i peggiori sono pieni di intensità appassionata. Ma allora noi siamo i peggiori? Se le cose stanno così, la rivoluzione dovrà essere fatta, ancora una volta, dai peggiori. I guru della sinistra della vecchia Europa s'ostinano a voler spiegare agli attivisti di Occupy, degli Indignados, alle transfemministe del movimento disabile trans prostituto frocio lesbico, intersex e postporno, che non possiamo fare la rivoluzione perché in realtà ci manca un'ideologia. Dicono un'ideologia come mio padre diceva un marito. Non abbiamo bisogno né di un'ideologia né di un marito. Noi transfemministi non abbiamo bisogno di un marito perché non siamo donne. Non abbiamo bisogno nemmeno di un'ideologia perché non siamo un popolo, né del comunismo né del liberismo. E non ci serve la cantilena cattolico-musulmano-ebraica. Noi parliamo altre lingue. Loro dicono rappresentazione, noi diciamo sperimentazione. Dicono identità, diciamo moltitudine. Dicono lingua nazionale, diciamo traduzione multilingue. Dicono addomesticare la periferia, diciamo meticciare il centro. Dicono debito, diciamo cooperazione sessuale e interdipendenza somatica. Dicono sfratto, diciamo abitare gli spazi comuni. Dicono capitale umano, diciamo alleanza multispecie. Dicono diagnosi clinica, diciamo competenza collettiva. Dicono disforia, disturbo, sindrome, incongruenza, deficienza, handicap. Diciamo dissidenza corporea. Dicono autonomia o tutela, diciamo agire in relazione e in maniera distribuita. Dicono ingegneria sociale, diciamo pedagogia radicale. Dicono prevenzione, terapia genetica, miglioramento della specie. Diciamo mutazione molecolare e anarco-libertaria. Dicono diritti umani, diciamo che la terra e tutte le specie che la abitano hanno dei diritti. Dicono pillola per prevenire la gravidanza, dicono clinica riproduttiva per poter diventare mamma e papà, diciamo collettivizzazione dei fluidi riproduttivi e degli uteri riproduttori, dicono potere, diciamo potenza, dicono integrazione, diciamo proliferazione di una molteplicità di tecnica di produzione di soggettività, dicono copyright, diciamo codice aperto e programmazione stato beta, incompleta, imperfetta, processuale, costruita collettivamente, relazionale. Dicono uomo-donna, bianco-nero, umano-animale, omosessuale-eterosessuale, valido-invalido, sano-malato, pazzo-saggio, ebreo-musulmano, Israele-Palestina. Diciamo, lo vedi già che il tuo apparato di produzione di verità non funziona bene. Quante Galilee saranno necessarie per questa volta per imparare a dare un nuovo nome alle cose? Siamo un battaglione sesso semiotico, una guerriglia cognitiva, un'armata di amanti, terrore anale, siamo il futuro parlamento post-porno, una nuova internazionale somatopolitica fatta da alleanze sintetiche e non da vincoli identitari. Loro dicono crisi, noi diciamo rivoluzione. Parigi, 20 marzo 2013. Insomma, io volevo leggere questo piccolo, che poi è un piccolo stralcio del capitolo, e, per augurare a tutte, a tutti, a tutto un bell'anno di sovversione, di grande cambiamento, nonostante magari le restrizioni che siamo costrette a vivere in questo momento. Ricordiamo che il distanziamento è fisico ma non è sociale, in un modo o nell'altro comunque possiamo essere insieme, soprattutto nella lotta e nel fare rivoluzione. E io appunto prenderò molto spunto dalle parole di Preciado, perché sono veramente belle e illuminanti. Io ti chiedo di sposarmi invece, Marco. Tu mi puoi sposare? Sì. Bellissimo, grazie. Beh, ma io l'ho letto, però anche le parole che hai detto alla fine del testo. Io spero che appunto possa, non sembrerà facile, soprattutto in questo momento storico, ma ecco, un modo c'è sempre e comunque, e insieme sicuramente è meglio, non dico che sia più facile, ma è meglio, è più forte. E non lo so, ultimamente sto leggendo molto questo autore, che è un filosofo, che è veramente una persona di un altro livello probabilmente, e aiuta tanto. Che bello. Quindi ecco. Grazie. Basta. Non c'è. Ogni domenica saremo qui presenti per fare sempre insieme, visto che insieme è meglio, ogni domenica le ribelli sempre presenti. Bravissima già che l'hai ricordato. È vero, le ribelli hanno cambiato giornata, non siamo più il giovedì, ma siamo fisse la domenica pomeriggio. Tanto comunque lo sappiamo che non potete più andare a fare l'aperitivo fuori. E non avete niente da fare. In casa potete farlo, potete bere tranquillamente, vi mettete con la radio accesa, la web radio di ZAM, e vi bevete il vostro vinello, il vostro gin and tonic. Che la veda fa benissimo, ragazze. Cioè, io 3 giorni che bevo gin and tonic e sono molto felice. Non vedevate l'ora di saperlo, vero? Gioia mi guarda proprio con un... Vabbè, dopo questo è bellissimo. Non vediamo l'ora di berlo, più che altro. Infatti, dovremmo portare qui la veda e anche noi sorseggiare insieme a lei gin and tonic. C'è ancora un botto di musica da ascoltare, vero? Ce n'è. Infatti mi chiedevo se avessimo voglia di ascoltare. Ma lanciamo questa tune. Vai, allora. Vai. E qui c'è qui Martina, la nostra presentatrice di canzoni. Oddio, difficilissima. Love Sick, ASAP Rocky, Muramasa. Please, bro. Yes. Please, with a cherry on top, can you... Weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro, promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, Get your weapons wrong, they only killing time. Another second gone, I heard your man at home. Now you melatonin, but you acting young. And you hella grown. Okay, she giving me love, but it fuck my energy up. Every time it's finna be summer, only got the memories of us. And now we industry lovers, they making enemies of us. I mean, them times we in public, they drain this energy from us. Visit Italia, be my senorita. Evita or Aviva, either way you need a visa. I ain't talking about MasterCards, debit cards either. Credit charge, Kermit the Frog, margaritas. Yeah, I heard she got a man, homie. Yeah, yeah, he wanna lay the hands on me. Yeah. But he should see the way she dance on me. Yeah. Wishing I ain't had no pants on me. Ci risiamo. Per salutarci ormai, abbiamo concluso il nostro tempo insieme giusto, proprio guarda, stiamo per spaccare il minuto. Brave! Io sono molto contenta che abbiamo ripreso con le ribelli. Mancava questo momento, mancava... Sì, vero. Mancava la radio. Per la prossima volta di essere fisicamente lì. sì, sarà così già. Piano piano si torna tutte. I cannot wait anymore. Ma potremmo mettere, volendo, dei dischi da mandare in radio? Ma perché no? Poi sarà un bello sbattimento attaccare tutto, però sì, si può fare. Ma in realtà noi, cioè, tutte le canzoni che avete... Una bella selezioncina di vinili di donne, feminist, Hollywood. Ma in realtà tu devi sapere, ma in realtà lo sai già, quindi faccio finta di spiegartelo per dirlo a tutti e a tutti. Che noi in realtà tutte le canzoni che mettiamo, le mettiamo proprio da vinile. Cioè noi abbiamo tutta una biblioteca di dischi... Cioè, ma una cosa spaventosa, cioè enorme, cioè di tutto, si trova qualsiasi canzone e noi proprio le mettiamo su vinile. Ma certo. Certo. In ogni programma, ogni canzone che sentite è messa, è di vinile. Allora, devo essere sincera, all'inizio lo facevo, nel senso che tutte le canzoni che all'inizio, le puntate precedenti, mettevo... Le avevo su vinile. Diciamo che le ultime, questa anche, non è che ce li ho proprio tutti, sarebbe molto bello averli. Però l'ultima sì, questa qua che abbiamo appena ascoltato, sì, ce l'ho. Beh, ma allora sappiamo cosa regalarti a Natale. Magari sarebbe bellissimo. Non dico mai di no, e tra l'altro per me un vinile è un regalo meraviglioso sempre. Anche se poi magari è un doppione, ma chi se ne frega. Io sono sempre felice quando mi si regalano vinili. L'ultima canzone è stata un po' la colonna sonora dell'estate. Dell'estate, sì, molto bella. Motivo per il quale poi ovviamente appena è uscito il disco subito a comprare. Basta per la musica. Va bene, allora noi... Dopo questa disquisizione sui vinili... Ci voleva questo approfondimento musicale. Certo. Sì, ci sta. Poi siamo state bravissime. Di solito facciamo puntate da 2 ore e passa. Siamo state nell'ora e mezza. Con anche i soliti disguidi tecnici. Marti, tu non lo sai, ma comunque abbiamo avuto i disguidi tecnici all'inizio della puntata proprio. Tanto sì, per cambiare. Ma se non ci sono va male, quindi va bene così. Ma era una cosa difficilissima, non ci sarebbe arrivato nessuno. Noi però ci siamo arrivate. Ci è arrivata la Mercu. E quindi voglio dire, noi siamo proprio ribelli. Yeah. E Lorenzo si starà mettendo le mani nei capelli, domani verrà qua disperato. Cosa avete combinato alla mia bambina? Ma no, ci mancherebbe altro. Allora è tutto a posto. Le sue allieve, oramai. Non ho preso il volo. Ebbene, vi ricordiamo che sarà possibile anche il podcast di questa fantastica puntata delle Ribelli, nel momento in cui riusciremo a trasferirlo dal computer, mandarlo nell'etere attraverso internet, quindi potete riascoltarci tutte le volte che vorrete. E li potete ascoltare sia, cioè li trovate i link dei podcast, sia sulla pagina Facebook della radio, Radio ZM, sia poi anche dal sito di ZAM. www.zam-milano.it. Grande. Questo lo sapevo. Attenzione, ragazzi. E poi penso anche su Archive. Su Archive, yes. Sì, ci sono tutte le puntate, anche quelle precedenti. Esattamente. Di tutta la quarantena precedente, lockdown precedenti, tutto precedente. Quindi non potete. Ma sempre attuale. Semprissimo. Quindi vi ricordiamo che torniamo settimana prossima, sempre su Radio ZM, alle ore 17 con una nuova puntata delle Ribelle, di cui potrete avere leggere la anteprima tra qualche giorno. Non vi anticipiamo nulla. E nel mentre ci salutiamo con una bellissima canzone. Martina, sei pronta? Vai. Dov'è? Qua. Dai, Peanut Feet, Kill Amy e DJ Oleg, The Architect. Ciaone. Ottimo. Ciao. Ciao. Ciao dalle Ribelli. Ciao a tutti.